Siamo in collegamento telefonico con Pierpaolo Di Mino di Terra Nullius. Intanto un ben ritrovato. Grazie, buonasera. Con te per parlare dell'appuntamento di domani, Ostia dei Poeti, Victor Cavallo e il fallimento di Castel Porziano al Teatro del Lido di Ostia, venerdì 2 febbraio alle ore 21, ingresso gratuito. Ti chiedo subito, Pierpaolo, strutturato l'appuntamento. L'appuntamento è una rievocazione di quello che successe nel 79, con uno sguardo critico, uno sguardo che cerca di capire che cosa è successo a distanza di tanti anni e che, diciamo, trova una, abbiamo trovato questo gioco, una dialettica fra i poeti di Castel Porziano e Vittor Cavallo. Diciamo che Vittor Cavallo figura come il poeta per noi, più che i poeti che si sono esibiti quel giorno in maniera un po' astratta, un po' astraendosi dal territorio e quindi facendo un'esibizione in qualche modo un po' televisiva, diciamo. E invece il percorso successivo di Victor, come quello che è stato Victor, secondo noi soprattutto un poeta. E domani sera rievocheremo appunto quella serata, ragioneremo oltre a raccontare le cose. In quest'ottica ragioneremo quindi della poesia, ci farà da sfondo una serie di illustrazioni di scrittori che abbiamo raccolto in questi anni attraverso le illustrazioni di Veronica Leffe, attraverso una rubrica che pubblichiamo su Terra Nullius, che è La biblioteca essenziale, una raccolta immaginaria di ciò che per noi è essenziale trovare nella libreria, ma che è un gioco di parola per ciò, per quel tipo di letteratura che tocca un po' l'essenza, che il lavoro dovrebbe fare la poesia, no? Cercare di toccare la cosa che sfugge sempre, quando la nomini già sfugge il tige in aristotelico. Sì. Oh, tra l'altro di quell'esperienza esiste il video integrale disponibile su YouTube, tra parentesi. Volevo chiederti, per voi cosa rappresenta la figura di Victor Cavallo? Allora, diciamo che per noi, poco tempo fa, e lo riproporremo, abbiamo stampato un libro di Vittor Cavallo, il suo Diario Tunisino. Io quando ero più ragazzo, grazie all'amicizia con Nicola Alessandro, che oggi non c'è più, ebbi modo di sfiorare Vittor Cavallo, non feci in tempo a conoscerlo, ma ebbi l'intuizione che poteva avere forse qualcosa, aver lasciato qualcosa, e grazie a Paola Febraro, che aveva conservato molti suoi manoscritti, siamo riusciti a tirare fuori, io e tante altre persone, una raccolta di racconti che poi è stata pubblicata da Stampa Alternativa dopo tante traversie, si intitola Ecchime. Ecco, in Vittor abbiamo scoperto soprattutto un poeta, un atteggiamento che è quello della poesia, proprio nel senso, è una cosa di cui discuteremo molto domani, nel senso proprio della parola greca, cioè questa produzione di realtà in qualche modo, no? Il discorso di Heidegger contro la produzione moderna come forma di sovrapposizione della realtà, e invece il sentimento greco di poesia come cercare la realtà. Ecco, in qualche modo Victor rappresenta fortemente un tipo di poesia che oggi non si fa più, o meglio, ciò che è la poesia, il suo attraversare il mondo, la vita, la realtà, la strada, no? Un po' come direbbe Derek Walcott, la vita non è qualcosa che va vista dall'alto, va attraversata dentro, va vista con gli occhi, toccata con le mani. E Victor per noi rappresenta fortissimamente questo atteggiamento e questa idea e questo ideale di poesia. Senti, raccontiamo a chi ci ascolta anche l'esperienza Terra Nullius. Allora, Terra Nullius è un collettivo nati tantissimi anni fa, non ho messo la contabilità, non riesco a farlo, che ha raccolto negli anni tantissime esperienze, tantissimi scrittori, e lavoriamo sia su un piano, per così dire, ideale, congegnando la nostra idea di letteratura, sia ovviamente pubblicando libri, sia facendo diversi eventi sul territorio. Negli anni ne abbiamo fatti tanti, alcuni si sono smarriti, altri sono rimasti nel tempo, come Libri al Popolo, raccogliamo dei libri diamo durante una festa a chiunque li voglia prendere. Abbiamo organizzato per alcuni anni un festival di letteratura che si chiamava il FLEP, il Festival di Letteratura Popolare. Le iniziative negli anni sono state tante, si sono sempre riunite attorno appunto al tentativo di fare letteratura, non in questo senso un po' con l'ideale di Victor e ovviamente di tanti altri scrittori e poeti, di non fare un'astrazione. Senti, allora ricordiamo l'appuntamento Ostia dei Poeti, Victor Cavallo e il fallimento di Castelporziano, incontro con Luca Moretti e Pierpaolo Di Mino, letture di Betta Cianchini e poi la mostra delle illustrazioni di Veronica Leffe. Quindi ci vediamo domani, giusto? Alle ore 21, Teatro del Lido di Ostia, l'ingresso è gratuito. Pierpaolo, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. A presto, ti ringrazio io, ci vediamo domani, dai. Ciao! Ciao.